get a good feeling, yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. Trasmissione autogestita sugli 87.900 di Radio Onda Rossa. Ciao a tutte, oggi in studio siamo Pina e Lucilla. Mentre tutte le altre stanno in ferie, invece noi resistiamo qui con voi. Vi ricordate che nell'ultima trasmissione vi abbiamo dato un assaggio della presentazione del libro Con Garbo di Maria Grazia Bevilacqua? Oggi vi facciamo ascoltare, dalla sua viva voce, il percorso e le motivazioni che l'hanno spinta a intraprendere questo viaggio di ricostruzione del mito e non solo della divina. La introduce Giovanna Olivieri del Cli, che ringraziamo per i pezzi del libro che ha letto e per i flash della sua vita che ci ha regalato. Io anticipo una conclusione, che adesso poi passo la parola a Maria Grazia, sul fatto che in realtà quello che la Garbo a cui vincolava tutti era il segreto della sua vita, ed era che aveva una doppia vita, e una vita da lesbica e una vita pubblica. Quindi l'eterno mito più diciamo significativo dell'eterno femminino, quasi, no? La bellezza, la grazia elusiva proprio di questa donna, la luce meravigliosa, la perfezione, la modernità anche. Pensate che in quegli anni, se fate un paragone sulle dive degli anni 20 e 30, no? Se guardate com'è truccata lei, come si presenta sulla scena, come si muove, fra l'altro una donna alta, diciamo, non sicuramente di grazia femminile. E insomma, per me i due miti, diciamo, della mia giovinezza sono stati la Garbo e naturalmente Rossella O'Hara, perché io ho avuto una lunga frequentazione di Via col Vento, perché secondo me era il film romantico per eccellenza, e ha fatto diciamo così, d'antidoto a ogni mio successivo mia successiva tentazione di romanticismo. Cioè, una volta che uno si è visto 10 volte Via col Vento, capisce molto bene su quali meccanismi si fondano quelle che io chiamo le pornografie sentimentali, che a me piaceva moltissimo anche Via col Vento. Adesso passo la parola a Maria Grazia, dato su una panoramica così del libro e del lavoro che ha fatto, e poi dopo vorrei farvi qualche piccola lettura di alcuni pezzi che mi sono sembrati molto belli. Se mi vuoi fare tu una domanda? Ti vuoi raccontare un po' come hai fatto? Sì. Come hai anticipato tu, io ho fatto un lavoro, direi, da detective. Ho sempre ammirato e amato la Garbo fin da ragazzina. E però dopo la sua morte, che è avvenuta nell'aprile del 1990, ho sentito il desiderio fortissimo di andarla a ritrovare, di non farla svanire. È un po' quello che forse molte di noi hanno provato quando manca una persona cara, che ci si domanda perché non abbiamo detto tante cose di più, perché non abbiamo parlato più spesso insieme. Ecco, io volevo ritrovare la Garbo. Anche questo è un motivo, e l'altro era che, siccome lei detestava la stampa, detestava i giornalisti, e io sono tale, detestava parlare della sua vita privata, aver circondato appunto la sua esistenza di mistero, io forse inconsciamente ho sempre rispettato questo suo desiderio di preservare la sua vita privata, e per molto amore e molto rispetto, non ho mai tentato di parlare di lei quando era viva. Non accenno nemmeno alla possibilità di intervistarla, perché era veramente un'impresa impossibile, più difficile che andare su Marte, perché le ultime interviste che la Garbo ha concesso risalgono addirittura alla fine degli anni 20. Basta, non ne ha più date. E invece, come dicevo prima, nel 90 la Garbo è morta e io ho deciso di andare a trovare dappertutto le persone ancora viventi che l'avevano conosciuta. Registi, attori, amici, conoscenti, e sono partita a fare questo viaggio, come dice il sottotitolo del libro, Viaggio alla ricerca della divina. Il viaggio comincia a New York nel 1990, nel novembre, quando io andai ad assistere all'asta, che mi sembra il 16 o 15 di novembre, da Sotheby's, fu tenuta, e dove si vendettero tutti gli arredi della casa della Garbo. Tra l'altro un avvenimento dolorosissimo, penso, per tutti coloro che amavano la Garbo, e io so che avevo pensato tra di me, vorrei essere Gianni Agnelli, comprare tutto io in blocco, lasciare tutto in casa nella Garbo e fare un centro di studi per la Garbo e per tutto il cinema di quell'epoca, cioè degli anni 20-30 soprattutto. E invece purtroppo non sono così ricca e ho dovuto assistere con dolore alla vendita di tutte le cose amate da lei e conservate per una vita a casa sua. Ecco, il viaggio comincia da lì. Naturalmente mi ero fatta un elenco di persone che sapevo che l'avevano conosciuta, e sono partita per il viaggio. Però non voglio dilungarmi perché non vi voglio annoiare, ma devo dire che non è stato affatto un viaggio facile, è stato un viaggio avventuroso. Ho avuto moltissimi rifiuti, gente che mi ha depistato, che mi prometteva di darmi l'intervista e poi non me la dava. Insomma, è stato un viaggio con i suoi lati oscuri, i porti mai raggiunti e i fallimenti. Però invece ho avuto anche la fortuna di incontrare delle persone che mi hanno ricevuto, mi hanno parlato a lungo della Garbo, e devo dire che gran parte di queste persone sono a loro volta dei grandi personaggi, perché ho intervistato Katharine Hepburn, che conoscevo per fortuna già da prima. Ho intervistato la figlia di John Gilbert, forse voi giovani non sapete nemmeno chi è, ma John Gilbert è stato uno dei grandi attori degli anni a cavallo tra il muto e il sonoro, partner per 3 volte della Garbo. Quindi ho incontrato la figlia di Gilbert, ho intervistato Marella Agnelli, che ha conosciuto la Garbo, Vera Kallman, che è la moglie, una donna che oggi ha 92-93 anni, lucidissima, la moglie di Emeric Kallman, famoso compositore di operette. Ho intervistato Mastroianni, ho intervistato Marina Cicogna, ho intervistato Douglas Fairbanks Jr. Insomma, moltissime persone importanti, famose, che mi hanno parlato della Garbo. Soprattutto ho trovato, attraverso ricerche lunghissime, che se dovessi raccontarvi, ci sarebbe da scrivere, come diceva un'amica prima, un altro libro che sta dietro a questo, lo specchio di questo, le radici di questo, del viaggio e dei fallimenti e anche dei successi. E dicevo che appunto attraverso le varie ricerche sono riuscita a incontrare due amici carissimi della Garbo, non famosi, non attori, non registi, però amici molto intimi, la conoscevano e l'hanno frequentata per circa 30 anni. E uno si chiama Raymond Dom e ha scritto un libro anche su di lei, e l'altro è Nicholas Meredith Turner, che abita a New York. Li ho tutti e due, uno l'ho incontrato in Texas, a Austin, e l'altro a New York, che mi hanno detto molte cose interessanti della Garbo, e credo che siano, soprattutto Dom, è stato il più, quello che mi ha colpito di più, perché ho capito, ho sentito che la conosceva veramente bene, le ha voluto molto bene, e mi ha fatto un ritratto completo del carattere della Garbo. Ed è stato lui che proprio mi ha detto che Greta le aveva confessato, questo già quando era anziana, sui 70 anni, che non era mai stata amata veramente come lei avrebbe desiderato da qualcuno, e che avrebbe desiderato essere amata soprattutto da una donna. E questo Don me l'ha detto molto molto chiaramente, e mi ha molto sorpreso, perché pensare che la Garbo allora, e penso ancora per chissà quanti anni, un viso come diceva Norris Tiller, il suo Pigmalione, il regista che l'ha scoperta in Svezia, perché lei era svedese, nata a Stoccolma, diceva: un viso come il tuo compare sullo schermo una volta ogni 100 anni. Sono perfettamente d'accordo, forse anche millenni. Comunque, ecco, dicevo, una donna bellissima, il simbolo del fascino, che non era mai stata amata come lei avrebbe desiderato, una cosa che mi ha colpito molto. Haus in mein Salon. Doch will mich wer begleiten da unten aus dem Saal. Dem hau ich in die Seiten und tritt ihm aufs Pedal. Ich bin die fesche Lola, der lieblichste Saison. Ich hab ein Pianola zu Haus in mein Salon. Doch will mich wer begleiten da unten aus dem Saal. Dem hau ich in die Seiten und tritt ihm aufs Pedal. Nur noch mir hin, schon verwirrt sich der Sinn. Männer, Männer, keinen küss ich hier. Und allein am Klavier sing die Zeil nicht mehr. Ich bin die Fische Lola, der Liebling der Saison. Ich hab ein Pianola zu Haus in mein Salon. Doch will mich wer begleiten, da unten aus dem Saal. Dem hau ich in die Seiten und dreh dem aufs Pedal. Ich bin die Fische Lola, ich hab ein Pianola zu Haus in mein Salon. Doch will mich wer begleiten, da unten aus dem Saal. Dem hau ich in die Seiten und dreh dem aufs Pedal. Und dreh dem aufs Pedal. Era d'obbligo salutare la divina Greta Garbo attraverso la stupenda voce di Marlene Dietrich in Ich bin die Fische Lola, e cioè Io sono l'elegante Lola. Ma adesso un'altra notizia importante. Alla settimana lesbica di Villa Guastavillani abbiamo incontrato, tra gli altri, un gruppo francese di lesbiche separatiste che vive vicino Tolosa. La loro esperienza è sicuramente interessante ed è per questo che ve la segnaliamo. Sono anche promotrici di una petizione che va sicuramente controcorrente, dati i tempi che corrono. Ma procediamo con ordine. Il gruppo si chiama Non Mixité, che vuol dire appunto separatiste. È costituito da 12 donne che vivono in campagna in due case vicine. Sono una comunità, consumano prodotti che loro stesse coltivano, hanno animali, femmine, riducono al minimo i contatti con l'esterno, procurandosi denaro attraverso forme alternative. Cercano di evitare il lavoro produttivo, scusate, nel mondo eteropatriarcale, lavoro che, dal loro punto di vista, le depauperizza. Sperimentano cosa può succedere nel tempo, dando e spendendo energie solo tra donne e soprattutto con lesbiche. Cercano di costruire un'altra scala di valori. Invitano tutte le lesbiche a visitarle e a sperimentare con loro. Hanno portato una petizione per avere luoghi veramente non misti, dove cioè possano accedere solo donne. Sostengono che anche i bambini al di sotto degli 8 anni non debbano essere ammessi. Di seguito vi leggiamo il testo della petizione. Petizione a favore di luoghi veramente non misti. Sempre più luoghi riservati alle donne si aprono ad un pubblico misto. Accettando la presenza di bambini maschi fino ad una certa età, per noi aprire loro le porte dei luoghi solitamente non misti significa incoraggiarli in ciò che già dalla più tenera età imparano. Il mondo gli appartiene solo in base al fatto che sono nati maschi. Permettergli una volta in più libero ingresso a tutto ciò che è femminile in questo mondo. Dimostrargli chiaramente che noi non abbiamo alcun diritto di negargli l'ingresso. Le donne che si sentono a disagio per la loro presenza se ne devono andare. Loro solitamente possono restare. In breve, aprire loro le porte dei luoghi normalmente riservati alle donne vuol dire presentargli una volta in più il potere su un piatto d'argento. Pensate forse che le generazioni precedenti di madri volessero allevare dei violentatori? Che non abbiano cercato di impedire che le donne venissero sottomesse e odiate? Ma sfortunatamente invano, come dimostra l'aumento in tutto il mondo della violenza contro le donne. Alcune di noi si sono opposte già 20 anni fa alla presenza di bambini maschi nei luoghi non misti. Questa generazione di bambini è ormai adulta ed ha chiaramente dimostrato che esse avevano ragione. Anche le bambine hanno bisogno di posti non misti, senza ragazzi, anche della loro stessa età. Esse subiscono l'oppressione e la violenza contro le donne in modo 1000 volte maggiore. Nella loro situazione di totale dipendenza dagli adulti non hanno alcuna possibilità di proteggersi. Esse si trovano a subire la violenza di uomini e ragazzi. La prova tangibile sta nella violenza e negli abusi sessuali che sono sempre più frequenti. La famiglia, il vicinato, la strada, la scuola sono pieni di esempi di violenza contro di esse. Ognuno di noi è stata bambina e sa esattamente di che cosa parliamo. Anche le bambine hanno bisogno di un luogo non misto. È nostra responsabilità di lesbiche dargli questo spazio. Sono loro la futura generazione di lesbiche. You go and do, go and give a boy a gun. Now there ain't no place to run to, ain't no place to run. When he holds it in his hand, he feel mighty, he feel strong. Now there ain't no place to run to, ain't no place to run. One day he may come back, he may ask for what we've done. Then where are you gonna run to? Where are you gonna run? But one fine day, all our problems will be solved. So bang, bang, bang, we shoot him down. Around, bang, bang, bang, we shoot him down. go and do? Go and give the boy a gun. Now there ain't no place to run to. Ain't no place to run. Now we'll all be at his mercy. He decides to hunt us down. Cause there ain't no place to run to. Ain't no place to run. He wants the chances that you took from him. Oh, and nothing that you own. Then there'll be no place to run to. There'll be no place to run. And if he finds himself to be a reflection of us. Era la stupenda voce di Tracy Chapman in Bang Bang Bang da Matters of the Heart. Venerdì 10 luglio sulla Repubblica è apparso un articolo in cui si metteva in risalto che a Pisa due lesbiche si sono iscritte al registro delle unioni civili. Immediatamente è seguita la replica del vescovo di quella città sullo stesso quotidiano il giorno dopo. Senza voler entrare nel merito dell'evento, che può trovarci o meno d'accordo e che semmai sarà oggetto di prossime trasmissioni, volevamo soffermarci piuttosto sulle dichiarazioni rilasciate dai rappresentanti della Chiesa, ma soprattutto su quanto detto dall'onorevole Silvia Costa, tra l'altro presidente parlamentare per le pari opportunità. Infatti, se da anni siamo abituate a sorbirci le prediche della Chiesa che ribadiscono il concetto della famiglia quale primaria formazione sociale fondata sul matrimonio, con tutte le conseguenze che da essa ne discendono, un po' meno chiara ci risulta la dichiarazione del vescovo di Pisa, Monsignor Plotti, quando afferma, riferendosi all'iscrizione nel registro delle unioni civili delle due lesbiche, cito testualmente: «Questa prassi mi sembra sinceramente affidata agli umori o agli arbitri di chi pretende solo diritti, calpestando forse i doveri inviolabili». Ci piacerebbe capire di quali diritti va blaterando Monsignor Plotti. Forse del diritto di esistere, di esprimersi, di vivere la propria sessualità con gioia, amore ed armonia e consapevoli delle scelte che si sono operate? Cose che nulla hanno a che vedere con gli umori o gli arbitri cui fa riferimento il vescovo. Semmai, gli umori e gli arbitri appartengono a quegli uomini, padri di famiglia, che avendo ottemperato con il matrimonio alla fondamentale e primaria formazione sociale, vanno in giro per il mondo a violentare donne, bambini, ad uccidere altri uomini, solo per affermare la supremazia degli uni verso gli altri, o peggio ancora, per soddisfare i propri istinti animaleschi. Calpestando sì in questi casi quei doveri inviolabili cui fa riferimento il vescovo e che sicuramente non appartengono alla cultura delle lesbiche in particolare, ma più in generale a quella delle donne. Invitiamo la Chiesa ad occuparsi del proprio ministero, che è quello di diffondere la parola di Dio sulla terra con tutti i suoi annessi e connessi, dedicando ad esso tutto il tempo a disposizione, senza perderne troppo con le lesbiche, che sicuramente non sono, né si sentono, pecorelle smarrite. Veniamo ora alle affermazioni dell'onorevole Silvia Costa, la quale dichiara testualmente: «È assurdo che una coppia di conviventi che ha deciso di non assumersi nessuna reciproca responsabilità possa essere equiparata alla famiglia». Risulta all'onorevole che l'amore, il rispetto, l'assistenza, la protezione, l'accudire o quant'altro siano sentimenti che si acquistano mediante il contratto stipulato con l'istituto del matrimonio? Perché a noi lesbiche risulta il contrario, che i sentimenti, buoni o cattivi che siano, sono insiti in ciascuna di noi, indipendentemente dai contratti conclusi. L'equazione dell'onorevole Costa, e cioè famiglia è uguale assunzione di responsabilità, ci dovrebbe far credere che per il solo fatto di aver aderito ad un'istituzione qual è la famiglia, chiunque, come per incanto, diventi una persona responsabile. A questo punto l'onorevole ci dovrebbe spiegare allora come mai queste persone tanto responsabili, quando si separano, utilizzano i figli per le loro beghe personali. Beh, ma è ovvio, perché ormai non formano più una famiglia. Oppure ci dica come mai i bambini continuano a subire violenza all'interno di queste famiglie, i cui componenti sono tanto responsabili. La risposta qui risulta più difficile. Beh, forse perché sono le eccezioni che confermano le regole. Non ci sembra il caso di continuare a porci questo tipo di interrogativi. Infatti, ci risulta troppo ovvia la banalità in cui è incorsa l'onorevole Costa. Anzi, approfittiamo per incitarla ad essere più riflessiva, ma soprattutto più costruttiva per l'avvenire nei suoi interventi. Ci viene il dubbio che l'onorevole faccia parte di una di quelle famiglie tanto responsabili. Anche a Roma abbiamo avuto il finto matrimonio tra lesbiche, celebrato al Jolie Coeur sabato 18 luglio. Si fa un gran parlare di diritti civili e di matrimonio. A noi non interessa né il matrimonio né i diritti civili, ma su questo argomento ritorneremo in un'altra trasmissione per dirvi sia cosa ne pensiamo e soprattutto per dialogare con voi. Watch and wait, and sorry never comes too late. In all our private wars, in all our private wars, tonight the battle lines are clear. The simple thing is to decide, is love alive or has love died? Era Srazi, il pezzo è Private Wars, dal CD Give It All Up. Viva la pa-pa-pa-pa, col po-po-po-po-po-pomodoro. Viva la pa-pa-pa-pa, che è un capo po-po-po-po-lavoro. Viva la pa-pa-pa-pa, col po-po-pomodoro. E se non l'avete ancora capito, questa è la sigla che introduce la rubrica sulla cucina. Dal libro di cucina di Alice B. Toklas, edito dalla Tartaruga. A proposito, per chi non lo ricordasse, Alice B. Toklas è stata la compagna per una vita di Gertrude Stein. La ricetta di quest'oggi è dolce all'hashish, ottimo per le giornate di pioggia. È il cibo del paradiso. Dei paradisi artificiali di Baudelaire, un dolce che potrebbe animare una riunione del Bridge Club. In Marocco dicono che serva a tenere lontani i raffreddori durante gli inverni umidi ed è più efficace se lo si accompagna da grandi tazze di tè caldo alla menta. Bisogna rilassarsi e aspettare allegramente di piombare in uno stato di dolce euforia e scrosci di risate, sogni estatici ed estensioni della personalità a diversi livelli simultanei. Se vi lascerete andare, potrete provare quasi tutto quello che provò Santa Teresa. Prendete un cucchiaino di grani di pepe nero, una noce moscata intera, 4 stecche di cannella, un cucchiaio di coriandolo. Polverizzate tutte le spezie in un mortaio. Prendete una manciata di datteri senza nocciolo, una di fichi secchi, una di mandorle e arachidi sgusciate. Tritate la frutta e mescolatela insieme. Polverizzate un mazzetto di cannabis sativa. Spargetela insieme alle spezie sulla frutta impastata insieme. Mescolate una tazza di zucchero a un grosso panetto di burro. Aggiungetelo alla frutta. Preparate un rotolo e tagliatelo a pezzi, oppure formate palline grosse come una noce. Bisogna fare attenzione a non mangiarne troppo, 2 pezzetti a testa basteranno. Può darsi che il reperimento della cannabis presenti qualche difficoltà, ma la verità, conosciuta col nome di cannabis sativa, cresce comunemente in Europa, Asia ed alcune parti dell'Africa, anche se spesso non la si riconosce. Viene anche coltivata e serve per fabbricare corde. In America la sua parente stretta è la cannabis indica. Si trova persino coltivata in vaso sui davanzali delle finestre, anche se la coltivazione viene scoraggiata in tutti i modi. Bisogna raccoglierla e seccarla appena fatto i semi e quando la pianta è ancora verde. Se la ricetta vi risulta poco chiara o qualche ingrediente vi è sfuggito, non avete altro da fare che telefonare a È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. Trasmissione autogestita all'interno del Martedì Femminista a cura del coordinamento Lesbiche Romane sugli 87.900 MHz di Radio Onda Rossa. Yeah. era la canadese Ferron in Venus as Appearances da Steel Riot. E adesso alcune curiosità dal mondo. Su 7, supplemento del Corriere della Sera, c'è uno speciale sulle lesbiche dal titolo promettente Lesbian Power. L'occasione è la giornata dell'orgoglio gay e le marce varie. La giornalista Patrizia Carraro, volendo guadagnare l'Oscar dell'originalità, fa le solite carrellate tra le coppie famose e i diritti civili, sottintendendo che quello che manca alle lesbiche oggi è la famiglia e i figli con l'autoinseminazione. La vera curiosità è che ha riportato una frase del documento che il CLR ha presentato al convegno Il Mondo da Fare, attribuendola a tutto il movimento. La Carraro non ha capito ancora la differenza tra politica culturale portata avanti dalle separatiste e quella dei diritti civili sostenuta dalle non separatiste. Riprovaci ancora, Patrizia, sarai più fortunata. Su Noi Donne di luglio-agosto 98 abbiamo letto un'altra notizia dal mondo. Vi ricordate di Donato Bilancia, il serial killer che ha violentato e ucciso le donne sui treni e che ha confessato ben 17 omicidi? Ha nominato una donna come avvocato. C'è da stupirsi? Non direi. Gli uomini sanno come farsi difendere. Chiedetelo alle madri e alle mogli degli stupratori. Dal Messaggero di giovedì 16 luglio veniamo a sapere che c'è in atto una disputa all'ultima parola tra l'Accademia della Crusca, l'Enciclopedia Treccani e l'Università di Bologna sull'espressione gergale «che fico». Gli esimi esperti si stanno letteralmente spolmonando, probabilmente con i soldi delle e dei contribuenti, dilaniati tra due ipotesi. L'espressione deriva dal frutto oppure dal corrispettivo femminile fica, considerata come cosa bella e desiderabile? Ma che chiedano a noi lesbiche, sicuramente più informate di loro sulla materia, e che ci diano soprattutto i finanziamenti destinati a una così tanto importante ricerca, che altrettanto sicuramente sapremo meglio utilizzare. Chissà invece da che cosa deriva l'espressione che cazzata? You say the things you say, you gotta mean it. And when you do the things you do, it's gotta come from the heart. Tina Turner non ha bisogno di nessuna presentazione, ma comunque il pezzo è Do What You Do da Wildest Dreams. Il coordinamento lesbiche romane, nell'augurarvi buone vacanze, vi ricorda che questa trasmissione non andrà in replica e che ci ritroveremo martedì 1 settembre, sempre alle ore 19:15, sugli 87.900 di Radio Onda Rossa, con È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, all'interno del martedì autogestita femminista. Sometimes I get a good feeling, yeah, yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no, yeah. Avete ascoltato È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, a cura del coordinamento lesbiche romane sugli 87.900 di Radio Onda Rossa. I really do believe that something's got